Italia in controluce. Il 9 di gennaio ed è Italia in controluce, il programma che indaga sulla società italiana. Vi parla Daniele Biacchessi. Lo sai che cos'è una fibra di amianto? È polvere invisibile. Una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. L'amianto serve come isolante di edifici, tetti, navi. Viene impiegato come materiale per l'edilizia, le tegole, i pavimenti, le tubazioni, le vernici, le canne fumarie, nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto, ma anche per la fabbricazione di corde, di plastica, di cartoni. E lo sai che cosa può provocare il contatto con l'amianto? L'inalazione anche di una sola fibra può causare il mesotelioma ed altre patologie mortali, come il carcinoma polmonare. Per raccontare che cos'è l'amianto, Filomena Greco è andata a Casale Monferrato. Parte da qui la seconda puntata di Italia in controluce nel 2012. Casale Monferrato ha due facce, quella di chi espone il tricolore con la scritta Eternit Giustizia e quella di chi vuole guardare avanti, provare a togliersi di dosso la maledizione che da decenni rovina la vita alla gente del posto. Ma qui tutti devono fare i conti con l'amianto e con i morti per mesotelioma. Circa 3.000 quelli accertati, 1.800 solo a Casale, dove si contano 50 nuove diagnosi ogni anno e dove sembra ancora troppo presto per chiudere i conti con il passato. Bruno Pesce dell'Associazione Familiari delle Vittime a Feva. È un male terribile, ma è un male trasversale che non guarda purtroppo in faccia a nessuno, perché l'inquinamento ha sconfinato ampiamente dei reparti della Eternit per invadere tutta la città, e queste malattie terribili come il mesotelioma si manifestano a distanza di molti anni. Queste sono esposizioni, la maggioranza, l'80% dei mesotelioma riguardano cittadini che da bambini, prevalentemente proprio da bambini se non da neonati, quindi decenni e decenni fa hanno subito questa esposizione purtroppo cancerogena dell'amianto. La battaglia di Casale contro le malattie da amianto ha radici lontane, le prime denunce dei sindacalisti negli anni 70, seguite dalle prime battaglie in tribunale. Nel 1986 la fabbrica chiude, solo nel 1992 lo Stato italiano mette al bando l'amianto, che intanto uccide ancora e chissà fino a quando lo farà. Nel 2004 la Procura di Torino avvia l'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Raffaele Guariniello. Dopo 5 anni di indagini, migliaia di pagine di memorie depositate, 6.300 parti lese, il processo contro Eternit e i suoi dirigenti si apre il 22 luglio 2009. Fra poco più di un mese è attesa la sentenza. I PM hanno chiesto una condanna a 20 anni per i due imputati, ritenuti responsabili della multinazionale. Il magnate svizzero Schmidani e il conte belga Descartier. I reati contestati, disastro ambientale doloso e la rimozione volontaria di cautele. Ma a lacerare la comunità dell'Alessandrino ora c'è l'offerta economica a titolo di risarcimento fatta da uno dei due imputati. E così il fronte da sempre compatto, amministrazione, associazioni e sindacati, si spacca. E la decisione del comune, guidata dal sindaco Giorgio De Mezzi, di accettare la transazione prima della sentenza e ritirarsi da parte civile nel processo, viene accolta la notte fra il 16 e il 17 dicembre scorso tra le urla e i fischi. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Prima che i risarcimenti vogliamo giustizia, dicono le associazioni. Sentiamo Pesce. Nel giro di pochi anni avremo ancora centinaia di vittime che chiedono giustizia. Se il comune si ritira già in un modo un pochettino temerario circa l'essere risarcito appieno per i danni complessivi che si manifesteranno nei prossimi anni. L'Eternit smaltiva regalando la polvere delle torniture dei tubi, scarti di lavorazione per gli usi più impensabili, quindi fonti di rischio che man mano vengono scoperte, chissà ancora per quanti anni, solo 130, cioè meno di 140 sono state denunciate fino adesso, ma ce n'è una, ogni tanto ne viene fuori una, poi ne vengono fuori due. Persino un sagrato di una chiesa, di un paese qui in collina, era fatto di questa maledetta polvere riutilizzata in questi modi. Quindi noi abbiamo anche una prospettiva di un danno che aumenterà negli anni man mano che recupereremo queste aree da bonificare, che costano moltissimo queste bonifiche, molto di più di una sostituzione e una copertura. Ma direi che il dato economico viene comunque dopo al dato della dignità che deve mostrare questa città. Le risorse economiche sono importanti, risponde il primo cittadino, e saranno destinate a bonifiche, ricerca e rilancio dell'occupazione. La scelta non è facile, il sindaco De Mezzi. Noi abbiamo ritenuto che ottenere subito, immediatamente, delle risorse per intervenire, per dare una soluzione immediata al problema della bonifica, quindi per dare impulso alla bonifica e alla ricerca medica, fosse sia una soluzione corretta, anche perché le probabilità di ottenere successivamente queste risorse sono veramente, veramente minime. Questo chiaramente è il discorso che si fa da amministratore. L'interesse nostro primo come obiettivo è proprio quello di utilizzare queste risorse per in qualche modo dare un impulso maggiore alla bonifica, perché sappiamo che già da tempo si è avviata questa attività di bonifica che ha già impegnato diverse risorse provenienti dalla regione, provenienti dallo Stato, risorse alcune anche nostre. Purtroppo se non si dà continuità non si riuscirà mai ad arrivare ad una completa deambientizzazione del nostro territorio. Quindi noi abbiamo bisogno di risorse proprio per avere questa certezza di continuità di questo tipo di intervento. E poi l'altro discorso della ricerca, perché in realtà noi non dobbiamo rassegnarci ad aspettare che appunto sia completata la causa che genera questo tipo di malattia, cioè aver diamantizzato tutto, ci vuole troppo tempo. Noi dobbiamo cercare di avere delle risorse per dare in qualche modo delle risposte immediate, quindi finanziando progetti che possono essere fatti da gruppi di ricerca medica di eccellenza a livello internazionale. Ci sono già questi gruppi. Perché? Per ottenere un miglioramento della qualità della vita, questo è già stato ottenuto, ci sono già stati dei risultati, ma anche per allungare il tempo di sopravvivenza. Come dire, ormai c'è un treno in corsa, no? per la ricerca, e serve alimentarlo per arrivare prima alla meta. Il dilemma se accettare un'offerta a titolo di risarcimento per un fatto grave, quale l'incendio in cui 4 anni fa persero la vita 7 operai della ThyssenKrupp, ha riguardato anche il sindaco di Torino, Piero Fassino, e la sua giunta. Fin qui le assonanze con Casale, molte in realtà le differenze, a cominciare da un punto fermo, la condanna dell'aprile scorso in primo grado a carico dei vertici della ThyssenKrupp per omicidio con dolo eventuale. In totale 81 anni di carcere per l'ex AD e 5 dirigenti. L'azienda si è detta disponibile a pagare subito quanto stabilito dal giudice in primo grado, senza dunque attendere appello e cassazione. In totale quasi 10 milioni di euro destinati a istituzioni locali, sindacati e a una 50 di ex dipendenti dello stabilimento. Il Comune di Torino ha accettato, destinerà quelle risorse a interventi a favore della sicurezza sui posti di lavoro e a borse di studio. E così pure hanno fatto Regione Piemonte e sindacati. Nel processo di appello che sarà avviato in primavera non ci saranno parti civili. Resta invece aperto un secondo fronte, quello portato avanti da Antonio Boccuzzi, scampato al rogo del dicembre 2007 e oggi deputato del PD. Sono cose che sicuramente ti cambiano, ti modificano la vita in tutto, dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista della vita stessa. Io ho dovuto imparare a convivere con quello che era successo quella notte, non mi sono mai voluto allontanare e provare a dimenticare, perché questo è una cosa assolutamente impensabile, però allo stesso tempo ho dovuto imparare a convivere con tutta la situazione. Nel processo penale c'è stato un riconoscimento di 50.000 euro, un riconoscimento legato esclusivamente ai danni morali. Io non ho presentato una costituzione di parte civile per altri tipi di danni che verranno poi richiesti nel processo civile, quindi il danno biologico, i danni patrimoniali legati alle spese mediche e sanitarie che ho sostenuto e che sto sostenendo tuttora. Non è con il rimborso o comunque con il riconoscimento economico che si esaurisce quella che per me è diventata una battaglia, ma non solo, anche una missione, che è quella che vorrei portare avanti in Parlamento. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete ascoltato il reportage di Filomena Greco da Casale Monferrato. Questa puntata è in podcast su www.radio24.it. Per comunicare con noi usate Facebook, la pagina e il gruppo, Twitter, il blog sul sito della radio, oppure tramite mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 puntuali su Radio 24 con nuove inchieste, nuovi reportage.